conosci una coppa, chi si sta male rindolette, bene c'è ti chiama sotto casa e tu invece non ci vuoi parlare. Pensa a tutti i vasi che ha girato, ma sta cancellando con una lacrima. Se tu vuoi fornisci la sta storia a così che la può cancellare. Ma se tu non vuoi bene che stasera ne ascoltam, chiama la prima che scena, non te fanno ne affidiam. Non fa vincere st'amore che è sbagliata, scena di una pera navana. E non fa così, ciò sai che in un demanzo a cosa dà, perché sei che a casa aspetta chi mangia sposato già. Non pazzia che non si vede in giro mai, se non si innamora ancora. Dimmi perché tu aspetti ancora, ora con goccia non aveva ora. Faccia che è difficile sta storia e non si può raccontare. Ma se tu non vuoi bene che stasera ne ascoltam, chiama la prima che scende, non te famo ne affidiam. Non fa vincere st'amore che è sbagliato, scena di una vera navana. E non fa così, ciò sai che non te mazza cosa dà. Ma chi sei che a casa aspetta chi mangia sposato già. Non pazzia che non si vede in cinema, se non si innamora ancora. Aspetta chi mangia sposato già. Non pazzia che non si vede